Radio 24 Reportage. Il lento addio del Giglio alla Concordia di Raffaella Calandra. Come in un lento addio, fermi sugli scogli della Gabbianara, lontano dai primi turisti venuti a fotografarsi, i gigliesi cominciano a salutare la balena d'acciaio rimessa in piedi, divenuta da un anno e mezzo parte del loro orizzonte quotidiano e alla fine amata come tutto ciò che il mare restituisce. Hanno pianto per la riuscita dell'impresa in quella notte senza riposo. Hanno pianto per questa facciata che sembra un palazzo bombardato e fa ricordare la sera del disastro, con la corsa a salvare i passeggeri e il dolore per i 32 che non sono mai scesi a terra. Ma hanno pianto i gigliesi anche per la nave in sé, destinata ora alla distruzione e contesa tra più porti, e quasi non vorrebbero lasciarla andare, anche se allo stesso tempo aspettano il momento che sparisca dalle loro vite per allontanare gli incubi e tornare alla normalità. Se potessi, mi prenderei la nave e me la porterei a casa. È una creatura per me. Portarla via... sembra che poi mi manca qualcosa. Anche perché in questo anno e mezzo tra l'isola e la nave ci sono stati anche quasi degli scambi affettivi, diciamo così. Esatto, proprio un discorso di affetto, di amore, perché chi nasce sul mare ha sempre dei pensieri particolari. Sono piatto e mi dispiace come ha detto lei ora che va via. È a parte di noi, capito? Se... quindi da una parte la soddisfazione di un'operazione che riesce, dall'altra... c'è dispiacere. C'è un corpo estraneo, arrivato qui in modo così tragico. Mettere nel lotto. Per voi è anche un sollievo perché si allontanano i rischi anche di danni. Poteva avere inquinamento che si rovinava tutto il Giglio. Era in ballo l'esistenza stessa, la vita del Giglio. Perché si trocca a due e rimane lì, Quando fa portata via siamo sollevati ancora meglio. Lei invece che appunto di mare se ne intende? Come il signore. La preoccupazione di questa nave che vede lì rispetto anche all'inverno, alle mareggiate, hanno detto che la metteranno in sicurezza. È un punto interrogativo perché contro le forze della natura non è che sia tanto facile prevederle. Ora per l'isola il passaggio successivo è vederla andar via. Certo, per noi è sempre un dolore. Perché voi non potete immaginare quello che prova le persone che hanno vissuto nelle famiglie dei marinai. Perché lei deve pensare che la nave, per una persona che naviga, è casa e l'equipaggio è famiglia. Ha capito? Quello che proviamo noi e le nostre donne non lo può provare la gente che vive in città. È come un contatto ombelicale, ha capito? Il mare fa parte di noi. Ecco, voi come avete vissuto questi mesi tra preoccupazione, ansia, in qualche modo anche fastidio? Il disagio, noi no, almeno io no. La curiosità, vedere tanta, ma tanta gente che macchinette, ti fotografia, non è possibile. Io penso che chi fa questo non ha un senso di umanità. Le persone che sono venute qui a vedere la Concordia. Tutti laggiù a fare il rosario, poi tutti lì a fare le fotografie, che ci ballava, che ci rideva, che scherzava, c'è ancora morti dentro, capito? L'isola del Giglio ha appoggiato, diciamo, tutto lo staff che ha lavorato a questa operazione. Praticamente questa gente che lavorava ha fatto parte integrale dell'isola, degli abitanti. I tedeschi, i francesi, gli indiani. E noi siamo orgogliosi veramente di questi ragazzi. Noi abbiamo aperto un'attività commerciale proprio l'anno scorso, un piccolo albergo. Cioè proprio dopo la Concordia? Sì, è il 16 di maggio e io da allora che ho questi ragazzi, questi ingegneri che lavorano. Proprio ne avevo tre che erano sulla control room, che ho fatto il tifo con loro e sono scesa giù alle 4 e mi sono abbracciati tutti perché ero orgogliosa di loro. C'è un prima e un dopo Concordia nella vita del Giglio, per dirla con le parole di Don Lorenzo. Tante cose sono cambiate fuori e dentro questa orgogliosa isola dell'arcipelago toscano, che abbraccia come un eroe Nick Sloan, il regista dell'operazione più difficile, la riemersione del relitto, ma non riesce davvero a festeggiare intorno ad un luogo divenuto tomba per tante persone, né davvero riesce a riporre le paure per le prossime tappe del progetto di rimozione della Concordia, curve altrettanto insidiose secondo il vice sindaco Mario Pellegrini, che quel 12 gennaio 2012 salì a bordo della Concordia mentre tutti scendevano. La nave che veniva fuori dall'acqua a tutti ha fatto la stessa sensazione, rivedere la notte del 13 gennaio. Come un po' un film che si riavvolge. Come un flashback. La nave era come quella sera, questa grandissima nave che si adagiava sugli scogli. Questo anno e mezzo lo avete vissuto con la preoccupazione, con l'incubo soprattutto di un danno ambientale forte. Adesso c'è il sollievo, anche se l'operazione non è finita, però un sollievo di sicuro c'è. Sì, bisogna stare attenti, come quando c'è una curva pericolosa si sta attenti, poi dopo ce ne sono altre curve, quindi magari si cade alla curva successiva. Ci dà, diciamo, un semaforo verde per poter capire che la nave verrà portata via per intero. Avete chiesto che qualcosa della Concordia resti come segno? No, la popolazione vorrebbe solo ritornare a quello che era prima del 13 gennaio, nella loro tranquillità. Quando sarà partita, al posto della Concordia sarà lasciata una targa semplice sugli scogli della Gabbianara in memoria di quello che è stato, ma nulla che possa diventare nuova attrazione per fotografi da scene del delitto che a centinaia sono sbarcati nei mesi su quest'isola, catapultata al suo malgrado in mondovisione, e questo ha cambiato anche gli abitanti pure dentro. L'isola del Giglio la conoscevano poche persone, ma l'isola del Giglio è conosciuta in tutto il mondo. Noi, il nostro parroco, la domenica disse che la storia del Giglio si divide avanti Concordia e dopo Concordia. Indelebile, rimarrà anche per i nipoti, per i figli dei figli, come tante altre cose che sono avvenute qua, come l'invasione dei turchi, dei tunisini. Anni fa, secoli fa, la stessa cosa sarà la Concordia per noi. Che segno lascia tutta questa storia della Concordia sull'isola? Nell'atto umanitario lo lascia grande, perché i bambini che hanno visto le scene, che tutti gli anziani, tutta la gente ha dato quello che poteva, cominciando dai terrazzi, dalle finestre, buttava giù coperte. Ha fatto riscoprire il senso della solidarietà. I valori della solidarietà. E questo anno e mezzo, con questa comunità allargata internazionale, questa vicenda ha segnato molto anche a noi, perché effettivamente come siamo isolani, siamo un po' misantropi, ecco. Invece allargandosi la comunità e facendo amicizia anche con gente di tutto il mondo, un po' anche noi siamo cambiati. Più aperti. Certo. Sul porto, tra i tavolini dei bar o seduti sulle panchine, i marinai dell'isola, con le loro facce rigate dal vento e dal mare, salutano e abbracciano come l'amico di una vita questi ragazzoni alti con i colori di un'altra parte del mondo. Sono diventati ormai parte integrante della comunità, i 500 addetti al grande cantiere galleggiante intorno alla nave. Come parte dell'isola sono diventati pure i familiari delle due persone tuttora disperse, Kevin Rebello, il fratello di Russell, il cuoco indiano, che ad ogni festa comandata scrive agli albergatori che l'hanno ospitato per mesi, o Elio Vincenzi, marito di Maria Grazia Trecarichi, che sulla nave Costa era andata a festeggiare i suoi 50 anni. Sull'isola stavolta sbarca insieme alla figlia, che era a bordo quella notte con la mamma. Ho avuto due tipi di emozioni, uno dall'altra parte di abbastanza serenità, perché sembrava la nave piena di gente che stesse navigando. Poi, quando sono venuto da questa parte, mi ha sconvolto, perché ho visto le due grosse, io le ho chiamate due grosse ferite, e poi il colore dovuto alla permanenza nell'acqua. Queste due facce della Concordia, come un po' le due fasi della sua storia, da nave della spensieriatezza, delle vacanze a nave di una sciagura. Io mi ricordo mia moglie, quando era a casa, prima di partire, mi ha fatto vedere su internet proprio l'interno dei saloni, e vederla così mi ha toccato. Mi dà moltissima tristezza il sapere che verrà fatta a pezzi, perché lì c'è stata mia moglie alcune volte e tornava felice da quella nave. Sul porto il vento porta via le lacrime che questo silenzioso professore vorrebbe trattenere, ma anche per lui ora è cominciato il lento addio alla Concordia. Partirà la nave, partiranno le televisioni di mezzo mondo e partiranno pure tutti gli addetti al grande cantiere che qui hanno trovato nuovi amici, compagni di birra e non di rado pure amori. E si narra che presto nasceranno i figli della Concordia e chissà, forse il mare potrebbe riportare indietro qualcuno. Così dicono. Una comunità prevalentemente di uomini e bisogna che lo chiede alle donne. Infatti erano tutti incavolati gli uomini perché ci sono tutti gli uomini che lavorano e donne ce ne sono poche, capito? Quindi ci sarà anche un momento del grande addio, diciamo. Sì, veramente. E sarà un dolore, sarà un dolore. Si dice qualcuno ce lo lascia lo zampino. Ecco. C'è qualche figlio della Concordia che nasce. Come quando successe che mandarono qua al confino Fred e Ventura, che vennero tanti carabinieri e diversi si sono sposati al Giglio, e così succederà per la Concordia, rimarrà il segno. Ma anche nei giorni della gioia per l'impresa riuscita, sulle facce bruciate dal sole degli abitanti del Giglio c'è soprattutto la malinconia che ogni addio porta con sé a lungo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.